Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, gran martedì internazionale con il ritorno delle coppe, anche se il clou è fissato per domani sera al Bernabeu con Real Madrid-Milan, senza dimenticare però gli echi di una domenica non proprio di ordinaria amministrazione, se, come leggo per esempio sulla stampa di stamane, sia Orsato che Rosetti sono stati fermati dal designatore Collina per gli errori commessi domenica ai danni di Sampdoria e Roma. Non ci sono ovviamente comunicati ufficiali in materia, la sospensione in questi casi è, insomma, non viene formalizzata, non viene ufficializzata, ma l'ipotesi che si fa è niente designazioni per almeno 2 settimane per entrambi, o forse per Rosetti e invece per Orsato, i cui errori sono stati oggettivamente per il mio più gravi. Si può parlare anche di qualcosa di più. Sono alcuni appunto degli echi domenicali, altri ce ne saranno in una ricca rassegna stampa che seguirà poi la prima parte dell'appuntamento di oggi, dedicato come ogni martedì al calcio internazionale. Bentornato dunque a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Senti, facciamo un passo indietro di 3 giorni ormai circa e torniamo al sabato pomeriggio di Sunderland, sì. Perché è accaduto, io credo che i nostri ascoltatori sapranno di che cosa si tratta, ma per quei pochi che non fossero al corrente, raccontagli un pochino in sintesi l'accaduto. Ma è accaduto quello che solitamente non accade, cioè un pallone calciato da un giocatore del Sunderland, in questo caso Darren Bent, che va in porta. Nel corso della traiettoria questo pallone, cioè quello ufficiale della gara, incoccia un altro pallone che, tra l'altro, in molto ironia della sorte, era stato buttato in campo da un tifoso del Liverpool, da un ragazzino di 16 anni, tifoso del Liverpool. Si sa che spesso i tifosi, soprattutto in Inghilterra, dove non si usano bandiere, dove non si usano striscioni, utilizzano come vessilli anche dei palloncini, a volte sono dei palloncini gonfiati semplicemente con la bocca e quindi totalmente innocui, altre volte magari vengono gonfiati in maniera un po' più pesante e riescono ad arrivare fino al campo. Insomma, in mezzo all'area c'era un pallone rosso, quindi con i chiari colori dei Reds. Il pallone calciato da Bent è andato a incocciare questo pallone rosso, di fatto la traiettoria non è cambiatissima, anzi io ho il sospetto, avendo la rivista poi mezzo migliaio di volte, che ci sia forse più un tocco da parte di un difensore del Liverpool più che il pallone venga deviato realmente da questo pallone, ma la cosa decisiva è stata che Reina, il portiere del Liverpool, trovandosi di fatto sulla traiettoria 2 palloni, cioè quello rosso e quello normale per anche la cromia, per l'effetto cromatico, sbarra gli occhi e non sa più quale prende. Segue il pallone rosso che ovviamente va da tutt'altra parte e il pallone buono va in porta e lo batte. Ora, il regolamento della Football Association è molto chiaro: quando il pallone quando c'è un'interferenza, il gol deve essere annullato. Onestamente non lo sapeva quasi nessuno. Ma difatti. Non lo sapeva la quaterna arbitrale, nei tre della terna più nel quarto uomo, non lo sapevano quelli del Liverpool che nemmeno hanno protestato. La cosa bella è che una volta saputolo hanno evitato di stracciarsi le vesti urlando al complotto o chiedendo la ripetizione della partita e perché no l'annullamento di tutto il campionato. Hanno semplicemente detto che può capitare, che è andata così e che avrebbero comunque meritato di perdere e che quindi cercheranno di rifarsi la prossima volta. E quindi l'ennesimo abisso misurato, no, del nostro calcio. Da noi sarebbero stati necessari i carabinieri, io credo, ma non in Serie A, credo anche in un torneo dei bar per un fatto del genere. Non solo il giorno della partita, ho il sospetto che poi ci si sarebbe pucciato il biscotto per molti giorni. Devo dire che Rafa Benitez, in questo periodo anche di grande difficoltà, sta emergendo come una figura veramente molto molto alta, molto molto nobile nel... Ripeto, in un momento nel quale la sua stessa panchina è a forte rischio, perché lui questa sera contro il Lione e nel weekend contro il Manchester United rischia veramente tantissimo. Eppure ha mantenuto una lucidità di pensiero che spero lui continuerà a mantenere anche nel caso in cui le cose dovessero virare in maniera molto negativa. Non me lo auguro naturalmente, ma certo. È sempre possibile. Hai già anticipato uno dei match clou di stasera. Io farei ancora un piccolo, breve passo indietro sui campionati, perché per fare un pochino il punto, si è creato un discreto, anzi un notevole equilibrio sia in Germania che in Francia, probabilmente abbastanza inatteso, ma tutte le classifiche fino ad ora non sono poi così delineate in avvantaggio delle favorite. No, non lo è neanche in Italia, per assurdo, dove c'è una formazione che è chiaramente più forte di tutte le altre, ma che non è ancora partita per la fuga, e lo è a maggior ragione in Spagna, dove il Barcellona ha pareggiato col Valencia, dove il Real Madrid era stato fermato la partita precedente, e dove quindi, grazie anche al fatto che le terze forze comunque stanno tenendo un profilo leggermente superiore forse all'attese, diciamo che il solco vero non si è ancora creato. La cosa è accaduta anche in Francia, dove il Lione ha perso contro il Sochaux nell'ultimo weekend 2-0 in casa, e quindi ha evitato che il Lione partisse per una di quelle sue fughe che qualche anno fa erano già decisive, non dico adesso ma a novembre. Io credo che dovremo aspettare ancora un mesetto, forse direi fino alla fine di novembre ci potrà essere ancora una situazione abbastanza così ravvicinata in vetta alla classifica. Dopo il sospetto di no, cioè fra 6-7 partite credo che le prime andranno via e saluteranno tutta la compagnia. Bisogna vedere quante saranno le prime, cioè in Spagna sono abbastanza sicuro che saranno in due, sì. In Italia credo che sarà una o al massimo due, in Inghilterra potrebbero essere due, perché insomma il Chelsea non mi sembra in grado di fare terra bruciata sotto. E in Francia andranno via Lione e Bordeaux, insomma, ragionevolmente dovrebbe accadere questo. Più tardi accade e più sono interessanti i campionati. Insomma. Non c'è dubbio, credo che non accadrà in Germania, ad esempio, dove in Germania no. Penso che succederà come l'anno scorso, cioè con molte squadre che si alterneranno in vetta alla classifica. Sarebbe interessante avere una statistica, magari per la prossima volta mi documento meglio, per sapere quanti cambi di vertice ci sono stati in vetta alla classifica. No, non quest'anno perché è facile, no, certo. A partire anche dagli anni scorsi, perché ad esempio in Germania avremmo avuto almeno probabilmente cinque capoliste, in Italia è molto più difficile, è chiaro. All'inizio è più facile, cioè all'inizio è più probabile che ci siano varie capoliste, però se ne tenessimo conto dalla quinta giornata in poi, o anche dalla sesta, dalla settima in poi, insomma, questo avrebbe probabilmente un valore di grande interesse. Scopriremo ad esempio che in Italia, in Inghilterra e anche l'anno scorso in Spagna la capolista è sempre stata la stessa. Scrive Roberto da Arezzo, dite per favore che il portiere poteva buttare fuori quel pallone rosso quando il gioco era ancora a centrocampo. È vero, ma il portiere però deve stare soprattutto attento allo sviluppo dell'azione, non può mettersi a fare l'addetto alle pulizie del campo. Sì, no? Io credo che si possa dire veramente di tutto, si può dire tutto, certo. Anche questo, ora fare una colpa a Reina mi sembra francamente eccessivo. Io sinceramente ho provato anche a immedesimarmi e probabilmente ci vorrebbe un esperto che riuscisse a spiegare davvero dal punto di vista dell'occhio qual è la situazione dominante che prova a spostare l'attenzione, perché quello è un riflesso, non è evidentemente un pensiero, la cosa è andata troppo velocemente per essere governabile dal cervello. Ecco che potremmo avere anche una spiegazione scientifica. Ora è chiaro, ha ragione l'ascoltatore, bastava buttarlo via, sì. Poteva buttarlo via un difensore, vai tu a pensare che questo pallone qua va in cos'è, cioè, voglio dire. Sì, ma ha ragione anche Giovanni che scrive da Brescia, ma il guardalino della partita non avrebbe dovuto segnalare in tempo che c'era un secondo pallone. Certo che sì, però a me sembra che la sintesi ideale sia quella che firma Dario in un altro messaggio, che dice: la classe non è acqua, non si compra al supermercato e per l'ennesima volta sono sempre gli altri a darci lezioni di serietà. Io la chiuderei davvero così. No, ma è vero, non si compra al supermercato e neanche in una grande boutique. No, è vero, anche questa. Smettiamola di usare il supermercato, perché al supermercato possono andarci tutti. Con perdon de las damas, lasciamo perdere. Con perdon de las damas. Lasciamo perdere i supermercati. Allora, il primo intervallo di oggi, poi andiamo sul panorama delle coppe europee. Prima delle partite di stasera, caro Fabio, mi piacerebbe dare un'occhiata anticipatrice già alla sfida grande di domani del Bernabeu. Perché? Ma perché non sappiamo ancora se giocheranno Inzaghi e Raul, però c'è questa incredibile situazione, no? Una classifica dei bomber europei che è capeggiata da Gerd Müller a 69 gol, storico, mitico centravanti del Bayern, ma con Inzaghi a 68 e Raul a 66. Ora, Raul ha 4 anni meno di Inzaghi e probabilmente, insomma, comunque il futuro giocherà per lui, però è anche vero che Inzaghi, che non ha mai giocato al Bernabeu, insomma, tra questi due domani sera, se giocassero anche soltanto la mezz'ora, l'ora di partita, il secondo tempo, e invece magari saranno poi titolari, mi pare che le suggestioni ci siano tutte. Ma sono tantissime, certo, il fatto che Inzaghi non abbia mai giocato una partita ufficiale al Bernabeu è abbastanza curioso, se vogliamo lo caricherà ancora di più. Tra le mille suggestioni che già questa partita ha, perché ne ha davvero tantissime, questa è addirittura una delle più intriganti. Ora, io non credo che Raul riuscirà a battere record, lo auguro al Milan naturalmente che non riesca a battere i record di Gerd Müller proprio domani sera. Credo anche che tutti i record che vengono migliorati in questa fase storica scontino, o meglio contino, sul fatto che si giochino molte più partite, quindi certo. Poi il record vero sarebbe quello, un saldo tra il c'è un quoziente ricavato, il record vero è il quoziente tra partite giocate, certo. E gol realizzati, ma non c'è quello, dubbio. Ma quello diventa di più difficile calcolo, quindi è normale. Ma soprattutto che serve meno al marketing, quindi. Sì, no, certamente sì, certamente è questo. Io credo anche che poi i gol si contino, ma si debbano anche pesare. E in questo Inzaghi non teme niente e nessuno, perché ha fatto dei gol pesantissimi e quindi certo. Può andarne tranquillamente fiero. Ecco, diciamo che Raul sembra più vecchio perché lo sentiamo di fatto da quasi quando siamo nati, ma è un giocatore ancora nel pieno della forza fisica e soprattutto ha un'età che gli consente di pensare ancora di 2 o 3 anni di riuscire a segnare parecchio. Credo anche che al Real Madrid piano piano comincerà a diventare sempre più come dire marginale il suo apporto, ma se diventasse marginale come quello di Inzaghi, cioè non per sminuirlo, ma di un giocatore che entra in maniera così spot e riesce a trasferire in campo anche nelle situazioni non tantissime nelle quali parte a titolare, beh, insomma, non dimentichiamoci che il Milan ha 3 punti perché Inzaghi ha giocato la partita di Marsiglia, perché altrimenti il Milan sarebbe in grossissima certo. difficoltà già alla seconda giornata. C'è dubbio. Più tardi i vostri interventi all'800240024, più tardi ma non poi tardissimo. Il tempo però per Fabio Tavelli di raccontare agli interisti e ai fiorentini chi siano, cioè come siano, come giochino queste due squadre, Dinamo Kiev e Debreceni, che insomma non sono proprio di primissimo piano, soprattutto gli ungheresi della Fiorentina. No, partiamo da lì, il Debreceni è all'esordio assoluto in Champions League, non ha iniziato benissimo perché è ancora 0 punti e soprattutto, insomma, a parte in casa che ha giocato contro il Lione, è stata abbastanza sintomatica delle difficoltà. Gioca un calcio abbastanza semplice, ha un centrocampo molto molto folto, gioca solitamente con 5 giocatori a centrocampo e si affida all'estro di Koulibaly per cercare di colpire in contropiede. Hanno grande rispetto della Fiorentina, ho letto dichiarazioni molto molto improntate al rispetto e alla presa di coscienza che la Fiorentina in questo momento è una formazione che loro possono e devono temere moltissimo. Credo anche che gli ungheresi siano destinati a non essere competitivi nemmeno per un posto in Europa League, e quindi di fatto questa sera do abbastanza per certo un risultato positivo della Fiorentina, e quindi loro saranno di fatto tagliati fuori completamente anche dalla possibilità di arrivare terzi, e potrebbero essere una sorta di materasso nelle prossime sì. tre partite. È importantissimo che la Fiorentina però vinca, che non si accontenti del pareggio, perché accoppiata col risultato di Anfield questa potrebbe essere, e la Fiorentina deve sperare in un buon risultato del Lione, la Fiorentina potrebbe mettere davvero una seria ipoteca questa volta sul passaggio del turno, perché se il Lione facesse risultato ad Anfield, ecco che nella fase discendente del girone il Liverpool non potrebbe più permettersi nemmeno di pareggiarle le altre 3 partite, e quindi dovrebbe fare un filotto di 9, cosa peraltro non facilissimo. Quindi diciamo che per la Fiorentina non è un match point, però diciamo che è una palla break importante. Lo è anche per l'Inter a San Siro, perché insomma dopo 2 pareggi non puoi se non fai 2 vittorie in casa adesso con Dinamo Kiev e Rubin Kazan consecutive, beh, cominci a rischiare davvero di non qualificarti, mi pare. Sì, la terza partita è davvero, non è soltanto un giro di boa, ma è una partita fondamentale. Ha ragione Mourinho nel dire che non è decisiva, perché comunque anche se l'Inter perdesse non sarebbe tagliato fuori. L'Inter ovviamente pensa che il Barcellona batta il Rubin Kazan questa sera e che Rubin Kazan di fatto abbandoni le chance di qualificazione. L'Inter è sotto di 1 punto rispetto alla Dinamo Kiev, e quindi è nella condizione, nel dovere di provare a vincere, al di là poi dell'astinenza da vittoria, che comunque è più una roba giornalistica per noi o per i tifosi più che per il morale o le idee dei giocatori, che credo invece siano molto più gasati per avere vinto a Genova 5-0. Detto questo, l'Inter deve assolutamente vincere, perché non vincere vorrebbe dire andare a giocare a Kiev in trasferta avendo un risultato buono su tre e concedendone due su tre agli avversari, perché ci serve una partita in meno da disputare, sempre tenendo presente che l'Inter deve andare a Barcellona e l'Inter ovviamente spera di andare a Barcellona con il Barcellona già qualificato, ma è anche vero che se il Barcellona sa o sapesse che battendo l'Inter se la toglierebbe definitivamente di torno, io credo che il Barcellona giocherebbe una partita seria. C'è e dubbio. Credo che comunque sempre giocherebbe una partita seria, quindi il consiglio all'Inter è di vincere questa partita stasera senza fare tanti calcoli, soprattutto pensando poi di poter battere anche Rubin Kazan. Con questi 6 punti l'Inter andrebbe a 8, a 8 solitamente si passa, e a quel punto lì non credo che la Dinamo Kiev o Rubin Kazan possano fare 8 punti nelle prossime giornate. Certo. Chiudiamo con una indicazione abituale, e tu in genere ci indichi in queste serate qual è la, indipendentemente dalle partite delle italiane, qual è quella da seguire in modo particolare? Ma guarda, io seguirei Stoccarda-Siviglia questa sera, siamo nel gruppo G perché il Siviglia ha 6 punti, ha giocato benissimo le prime due partite, le ha vinte abbastanza facile, però era con i Rangers e con l'Unirea. Diciamo che lo Stoccarda è il primo avversario, cioè è l'unico vero avversario di questo girone. Giocando in Germania, tra l'altro ho letto un'intervista a Luis Fabiano che ha detto, e anche ad altri del Siviglia, hanno detto lo Stoccarda è il classico gigante silente, il gigante che non si manifesta, sì. Ma se lo svegliamo potrebbe darci dei problemi. Siviglia rimarrà comunque in vetta al girone alla fine della partita di questa sera, però insomma, dovendoci buttare un occhio tra tutte le altre partite, sinceramente per me la partita della sera è Liverpool-Lione, ma questo abbondantemente sopra tutte le altre, sì. Ovviamente ci sono le partite delle italiane, se togliamo Liverpool-Lione che comunque ha un'implicazione anche con la Fiorentina e Inter-Dinamo Kiev, io pescherei Stoccarda-Siviglia. Piccola occhiata all'Arsenal che però gioca in trasferta contro la Z ha un solo punto, l'Arsenal ne ha 6, insomma non sarà facile per l'Arsenal, però diciamo che Stoccarda-Siviglia mi intriga un po' di più. Vedremo di seguire i tuoi consigli e ci risentiamo giovedì per un bilancio di questi due giorni. Volentieri, a dopo domani, ciao a tutti. Grazie Fabio Tavelli, scrive Marcello da Milano, condivido il vostro parere, è giusto non fare drammi, stiamo sempre parlando del palloncino, ma con la quaterda arbitrale che dimostra di non sapere il regolamento, credo che l'Inghilterra non ci faccia questa volta una gran figura. Marcello, no, non ci fa una gran figura l'arbitro in campo che in effetti è già stato retrocesso in seconda divisione per la prossima partita, non ci fanno una gran figura, diciamo i 4 giudici di gara come lei dice, ci fa un grande figurone il Liverpool evidentemente per il suo fair play e l'intero movimento calcio che di fronte a un episodio del genere assolutamente senza precedenti e ammettiamo pure con un pizzico di dilettantismo interpretativo però ci fa una gran figura il movimento che lo vive con questa lievità, senza ricorsi, senza tumulti e senza polemiche. E ripeto, il paragone con noi in diretto è certamente impietoso, al di là della defiance arbitrale. C'è già un ascoltatore collegato, avevo tutti quei ritagli che vi ho promesso. Sentiamo Paolo dalla provincia di Bari, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica Paolo. Volevo proprio intervenire su quanto accaduto sul campo del Sunderland e quindi il parallelismo tra il comportamento del Liverpool e quello che accade nel calcio italiano. Sono naturalmente perfettamente d'accordo con lei e quanto è stato detto, perché noi non ci facciamo una bellissima figura. Io pongo questa questione: cosa sarebbe accaduto in Italia un comportamento come quello del Liverpool in un contesto in cui chi si comporta così in realtà viene quasi emarginato o etichettato quasi tra virgolette come un fesso, il fesso di turno che accetta la situazione. Penso che il problema derivi proprio dalla necessità di avere un'educazione civica che a quanto pare non è più presente in tutti i settori, non soltanto nel calcio. Purtroppo viviamo questa situazione, è bene che si metta in evidenza, però evidentemente dobbiamo fare molto per migliorarci anche da questo punto di vista, cioè un'educazione civica a tutti a 360 gradi. Sottoscrivo al 100% le sue parole, caro Paolo. Vi leggo, per chiudere questa prima parte di programma, vi leggo questo ritaglio del Corriere della Sera che si domanda quante siano le candidature italiane alle Olimpiadi del 2020. Un mucchio, sembra il menù di un ristorante. Infatti il presidente del CONI, Gianni Petrucci, ha usato proprio una metafora gastronomica per bacchettare questo show olimpico. All'estero, ha detto Petrucci, non facciamo una bella figura. Un po' di moderazione. Nella prossima giunta CONI fisseremo dei criteri seri, perché non basta una conferenza stampa per candidarsi ai giochi olimpici. Siamo contrari, ha detto Petrucci, alle candidature sfornate come pizze napoletane. Non possiamo seguitare a fare questa figura. Ricordo che al momento le candidature strillate italiane alle Olimpiadi del 2020 sono la bellezza di quattro: Venezia, Roma, Palermo e Bari. E pare ce ne sia un'altra che riguarderebbe un improbabile liaison tra province romagnole. Conferenza stampa di presentazione di Real Madrid-Milan, intervento di Kakà: secondo me sarebbe importante finire il girone al primo posto e far fuori una squadra come il Milan, che nei momenti importanti esce sempre fuori. Se segno non esulterò, ma sono pronto a tirare un eventuale rigore, visto che non c'è Cristiano Ronaldo. Cercherò di fare gol, ma ho rispetto per la storia del Milan. È una cosa nuova per me giocare contro il Milan, vedremo domani. Sono un professionista, gioco per il Real e cercherò di fare del mio meglio. Ci sono numerosi ascoltatori che chiedono di intervenire. C'è Federico, un disfattista evidentemente, che scrive: tra poco, dopo Bari, Venezia, Palermo e l'altra che non ricordo, per le Olimpiadi si proporranno Reggio Calabria e Messina, così faranno le gare di atletica sul ponte, visto che per il 2020 dovrebbe essere pronto. Federico, lei è un disfattista, lo sappia. Raffaele ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno, io vorrei brevemente intervenire sul Napoli, chiamandola in causa e chiedendole un commento. Non le pare sgangherata e per certi aspetti assurda la decisione di De Laurentiis di revocare la fiducia a Marino dopo 5 anni nei quali oggettivamente per cifre irrisorie è riuscito a portare a Napoli giovani talenti di sicuro avvenire come Gargano, Hamsik, Lavezzi, Santa Croce, Mannini, ed era l'unico in grado comunque di garantire a questa società un avvenire radioso nel gota del calcio italiano? Volevo appunto avere una sua opinione in merito. Ma insomma, lo trovate sgangherati sono i modi che spesso usa De Laurentiis, i modi e i toni. È stato lei a usare questo aggettivo. Nella sostanza io credo che 5 anni siano tanti comunque, e che anche qui siano stati sbagliati i modi, ma le valutazioni alla fine toccano i presidenti. La sua valutazione è stata questa, certo è stata come minimo intempestiva, perché una svolta di questo genere si fa a inizio stagione, non alla fine. Si fa alla fine una stagione e non all'inizio della successiva. Però insomma, nel merito nel calcio si è visto anche di peggio. Se parliamo di toni e di modi sgangherati, beh, in effetti insomma, ha una posizione abbastanza altina in classifica, ecco, questo sì. Alterniamo adesso i vostri interventi a qualche voce di vigilia, e allora privilegiamo la vigilia immediata, e quindi quella per esempio dell'Inter con Mourinho. Questa squadra del Dinamo è più del 50% della squadra nazionale di Ucraina, una squadra che giocherà playoff, che è là vicino al campionato del mondo. È una squadra con, secondo me, con tutto. Struttura fisica è veramente impressionante, grandissima organizzazione, perché ha un allenatore di grande qualità e di grande esperienza in questa competizione, che dopo ha velocità sulle fasce, giocatori di grande velocità, Gusev, Yarmolenko, tutti i giocatori bravi, e che dopo davanti ha i due migliori attaccanti di Ucraina, uno giovane di grandissima qualità, di grandissimo potenziale, che è Milevski, e Ceva che è Ceva. Non è male. Allora, Inter, altri ritagli. Beh, la rubrica milanese, cioè dell'edizione milanese Repubblica del martedì, c'è una riflessione seria di parte nerazzurra firmata da Antonio Di Polline, e c'è una come sempre scherzosa di Vittorio Zucconi che riguarda il suo Milan. Allora, Di Polline scrive: vale, insomma è un ragionamento precedente, ma poi si conclude così, vale anche e soprattutto per Balotelli in tribuna squalificato, a meditare su quanto poco convenga farsi squalificare, visto che stasera perde un'occasione d'oro per ripetere Genova e dimostrare all'Europa che un italiano degno dei 30 del pallone d'oro ci sarebbe pure, ma si diverte spesso a tenercelo nascosto. Lo trovo deliziosa come formula. Mentre invece Vittorio Zucconi infierisce su Thiago Silva dicendo: Thiago Silva è riuscito domenica a farmi rimpiangere Roque Junior, pupillo di Galliani, e se non vi ricordate chi fosse, meglio per voi. Tocca a Roberto, ha chiamato da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno, scusate la voce, buongiorno a lei, al suo staff e a tutti i radioascoltatori. Era una constatazione quella che volevo fare più che altro io. Io sulla forza, secondo me, dell'Inter rispetto a quello, a quella della Juve in campionato, che tutti dicono che, molti dicono che il gap è stato colmato da parte della Juve. Per quanto mi riguarda, essendo non, anche juventino, io però la penso diversamente. Secondo me il gap tecnico può darsi che sia stato colmato, ma prevale in l'Inter, dal mio punto di vista, la duttilità che ha tutta la sua quella squadra, in ogni singolo giocatore quasi, mi viene da dire, tipo Cambiasso, che da centrocampista può fare il difensore, il libero, Zanetti, anche lui può fare due ruoli diversi, come anche Stankovic può giocare più avanti nel centrocampo come più indietro. Kivu, la stessa identica cosa, da difensore può fare centrocampista, cosa che nella Juve manca, ed è da molto che manca. L'unico forse è Marchisio, ma neanche io non riesco a trovare nei giocatori della Juve una duttilità così vasta che nel campionato italiano fa la differenza per quanto riguarda l'Inter in questo caso qua. Beh sì, è una buona riflessione questa, mi pare. Cioè, non è l'unica differenza a vantaggio dell'Inter, però certamente è una differenza, e come dice lei, a gioco lungo può pesare, e può pesare in maniera anche decisiva. Lo si è visto molto chiaramente la sera di sabato, quando una squadra, ripeto, una formazione trovata per necessità e non per scelte, si è rivelata la più felice di tutta la gestione murignana. Perché? Ma proprio perché c'è una grande duttilità da parte degli interpreti migliori dell'Inter. Questo è vero. Ha chiamato Fabio dalla Spezia, buongiorno. Pronto? Dica, buongiorno, Fabio. Buongiorno. Vuoi esprimere un parere fuori dal coro rispetto a quelli che ha sentito fino ad ora in merito a questo gol che è stato fatto in Inghilterra dal Liverpool? Io ritengo che quel gol, intanto naturalmente, deve essere annullato, ma per un profondo senso di giustizia. Cioè, noi in Italia sicuramente avremmo fatto polemica, e io personalmente le dico che avrei fatto polemica anche per una canzone di fila, perché un gol in quella maniera non lo si può ricevere. E il fatto che gli arbitri non conoscano addirittura il regolamento inglese, questo è ancora più grave. Noi spesso guardiamo all'Inghilterra, ma mi sembra che tanto lo si faccia in maniera mielosa. Critichiamo sempre gli arbitri italiani perché non arbitrano bene. E poi in Inghilterra addirittura non conoscono il regolamento, che mi pare fosse abbastanza chiaro. E tra l'altro così si ritiene fair play quello di accettare una decisione che è palesemente ingiusta. Cioè, il calcio è fatto di regole, sì. Sono delle regole scritte. Il calcio è fatto di regole scritte, lei ha perfettamente ragione. Il calcio poi è fatto anche di imponderabile. Prima un ascoltatore mi citava l'immortale Brera con i suoi capricci di Eupal. Il calcio è fatto di entrambe queste cose. Dopodiché il calcio civile è fatto della serena accettazione anche di un errore arbitrale palese. Da noi abbiamo abitudini diverse. Mi sembra che lei sia favorevole a queste, cioè a questo nostro costume, e questo e tra di noi evidentemente è difficile che ci possa essere accordo. Un articolo pubblicato stamane dal Corriere della Sera, firma di Aldo Grasso, nella rubrica televisiva. Ve lo cito e ve lo leggo per sommi capi, perché riguarda una disciplina, il ciclismo, che normalmente non fa parte di questi spazi, ma insomma è una delle più terrificanti stroncature che abbia letto negli ultimi anni, e quindi se non altro per curiosità e per il fatto che oggi il giornalismo è diventato o buonista o insomma o picconatore, ma in altri sensi, questo mi è sembrata una stroncatura vecchia maniera. Scrive Aldo Grasso: quello di sabato 17 ottobre è stato un Giro di Lombardia molto triste. Il mitico Auro Bulbarelli ha dato l'addio alle telecronache perché in una recente seduta il CDA Rai lo ha designato incarichi dirigenziali. In un'infornata con e seguono alcuni nomi di altri colleghi promossi, come nei ragazzi della Via Pal. Anche in Rai ci sono solo ufficiali, non si trova più un soldato. Ma per l'ultima telecronaca di Auro Gold Bulbarelli, si domanda Aldo Grasso, non bisognerebbe stappare champagne o tirare il collo a un Barolo Cannubi del 2001? Non è stato il campione assoluto della banalità? Non è lui che ci ha ubriacato di noia e di inutili mail dei suoi fans? Non è lui l'artefice del bulbarellismo, quel giornalismo prodigo di storditezze universali, coraggioso nelle opinioni altrui e saggio con lo spirito del prossimo? E non è probabile che senza la presenza fastidiosa di Auro Davide Cassani ritrovi l'antico smalto e ricominci a parlarci di ciclismo? Il fatto è che dietro la bella notizia se ne nasconde una tragica. Auro Bulbarelli è stato nominato vice direttore di Rai Sport. In base a quali meriti non è dato sapere, perché se stiamo alla qualità delle sue telecronache qualcosa non torna. Pare che Auro Gold goda delle simpatie della Lega di Umberto Bossi, un partito che si è sempre opposto alla lottizzazione. Smessi i panni pleonastici del telecronista, Auro Gold metterà le sue ovvietà al servizio del servizio pubblico. Evviva! Luigi ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Luigi. Mi permetterei una piccola nota polemica. Sì. Permettendo che io ovviamente sono assolutamente dell'idea che in Italia si dovrebbe migliorare molto come civiltà in campo calcistico e non solo purtroppo in campo calcistico, e devo dire mi dà però un po' fastidio sentire portare con la nostra caratteristica esterofilia come esempio i tifosi inglesi. Tifosi inglesi che attualmente, io abito a Milano vicino allo stadio, vicino a San Siro, e devo dire che quando ci sono le squadre inglesi, tuttora non è un gran bel vivere, in giro ci sono persone ubriache che provocano, eccetera. Ma quello soprattutto vorrei ricordare che tifosi inglesi, io ho 50 anni, me lo ricordo molto bene, 25 qualcosa anni fa si sono macchiati del più grosso, sproporzionato crimine della storia del calcio. Ma non c'è... io credo che non si possa dimenticare. Ma nessuno lo dimentica, Luigi, però voglio dire, no, non gli hanno dato l'ergastolo, gli hanno dato un determinato numero di anni di condanna, e in quegli anni loro sono hanno fatto, forse non per loro merito, per merito delle autorità inglesi, per merito delle leggi apposite che sono state fatte, ma insomma hanno ampiamente scontato la loro colpa, e oggi se si permettono qualcosa di scorretto, certamente non più le tragedie di allora, ma qualcosa di scorretto, lo vengono a fare all'estero, e questo significa che lassù l'ordine pubblico sanno come lo si gestisce, ma sul serio, non con gli osservatori e con le terapie che siamo soliti usare noi. Lei ha compiuto un grave misfatto, mi scrive un ascoltatore, specialmente in questi tempi nostalgici, ha citato ad esempio la perfida Albione. E allora ripassiamo un pochino di storia, ma dello sport, però in questo caso con l'aiuto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 20 ottobre 1971. Al 29esimo minuto di Borussia Mönchengladbach-Inter, andata del secondo turno di Coppa dei Campioni, una lattina lanciata dagli spalti colpisce il centravanti nerazzurro Roberto Boninsegna, costretto a uscire dal campo. L'Inter, già in svantaggio per 2-1, si sfalda e subisce altri 5 gol, chiudendo in 9 uomini per l'espulsione di Corso e l'infortunio di Jair. Mentre in Italia, in un caso analogo, ci sarebbe stata la vittoria a tavolino per 3-0, il regolamento europeo non contemplava questa possibilità. Sarà grazie all'abilità di Peppino Prisco, vicepresidente legale del club nerazzurro, che l'UEFA riconoscerà la responsabilità oggettiva del Borussia, decidendo di far rigiocare la gara. Il resto lo faranno Mazzola e compagni, prima sconfiggendo per 4-2 i tedeschi a San Siro e poi bloccandoli sullo 0-0 nella ripetizione che si giocò il 1 dicembre a Berlino Ovest. Sì, Mazzola, compagni e Bordone in quella ripetizione di Berlino, perché quello 0-0 fu, ricordo molto bene, fu frutto, non dico esclusivamente, ma soprattutto delle strepitose parate di questo ragazzino, allora poco più che debuttante, che sostituiva il titolare, che era un grande portiere come Lido Vieri. Poi Bordone lo sarebbe diventato, io dico quasi altrettanto, ma insomma lo sarebbe diventato comunque di notevole livello. Kakà ho l'impressione che voglia guastarsi proprio col Milan, perché le dichiarazioni di prima potevano, come dire, urticare un tantino i tifosi più sensibili, ma adesso dice che il Real Madrid è un po' più grande del Milan a livello mondiale, e questo vuol dire mettersi davvero, inimicarsi la società, che invece su questo dualismo a proprio vantaggio sta provando a costruire un marketing un marketing speciale da molto tempo. Lorenzo ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, le faccio soprattutto complimenti per la conduzione della trasmissione. Grazie. La seguo sempre con molto interesse. Le chiedevo quello che lei pensa di un cambio d'allenatore in corso durante una stagione, quali vantaggi porta una squadra, e in particolare in prospettiva anche Milan e Juventus, visto che gli allenatori i risultati negativi li hanno messi un po' in discussione, e nello specifico sul Napoli quello che pensa di Donadoni e Mazzarri. La ringrazio. Beh, è lunga, Lorenzo, come domanda, e non avrà grande soddisfazione, perché insomma, in generale penso che la sostituzione di un allenatore in corso d'opera è comunque un fallimento, a prescindere, perché significa aver sbagliato una scelta precisa. Penso che addirittura ci si è specializzati in questo genere di fallimento, arrivando a quella abiezione, a parer mio addirittura, che è il doppio richiamo, e cioè questa è una specialità nostrana proprio, e cioè ho nominato l'allenatore X, lo cambio dopo 4 giornate con Y, dopo altre 5 o 15 Y non funziona così bene, ma a quel punto devo risparmiare, richiamo X. Lei si immagini se un'azienda che sta andando male richiamerebbe un amministratore delegato che ha cacciato, no, però la realtà una volta è successo in politica, ma insomma lasciamo stare la politica, che non mi sembra un buon modello. Quanto ai dettagli, io credo che non esistendo le controprove sia difficile fare. Donadoni ha commesso, a parer mio, il Napoli e Donadoni hanno commesso un errore grave lo scorso anno, bruciandosi reciprocamente nel finale di stagione, quando tanto valeva finire con Reja e soprattutto non bruciare il candidato per l'annata successiva, in un momento in cui dal Napoli si poteva oggettivamente cavare poco. Poi adesso dire se Mazzarri sarà più o meno, la gestione Mazzarri sarà più o meno felice di quelle di Donadoni, mi sembra un po' prematuro, e comunque mi dichiaro sin d'ora non all'altezza. Bruno dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Volevo fare con lei una riflessione su un argomento, sarà stato proposto chissà quante volte, ma mi consente di farlo. Parlo delle barriere che dividono gli spettatori dal campo di gioco, che ormai è una prerogativa che abbiamo solo noi, di cui vergognarci, francamente. No, io trovo che le cose di cui vergognarci siano altre. Questo è un passo da fare prima o poi, ma secondo me è un passo da misurare la lunghezza della gamba. Le nostre gambe sono ancora mal ferme, se parliamo di senso di responsabilità del pubblico. Lei davvero crede che sia così difficile? Io invece penso che, dato che in altri sport questo succede e non ha mai creato grandi problemi, la pallacanestro, la pallavolo ed altri, molti o alcuni degli stessi spettatori che vanno a vedere la partita di calcio sono ingabbiati, sono gli stessi che poi vanno a vedere le partite di pallacanestro e diventano civili. Io credo che la responsabilità più ampia sia delle istituzioni, che hanno pensato da sempre che era più facile tenere gli spettatori ingabbiati piuttosto che creare i presupposti perché dimostrassero alla stregua di tutti gli altri di tutto il mondo. Anche perché a me sembra che una piccolissima minoranza di pubblico ricorra alla violenza e che la parte saprebbe emarginare questo contesto. Poi dando la partita persa ogni volta che uno va fuori, esce dagli spalti, la cosa forse si risolverebbe come si erano risolti i problemi dei petardi, quando hanno detto bene, primo petardo diamo partita persa. Da quel momento in poi mi sembra che i petardi abbiano cessato di essere lanciati. No, se le sembra che abbiano cessato, non è ben informato. Se le sembra che siano diminuiti è un altro discorso, ma io prima di abbassare la guardia su questo piano starei dalla parte delle istituzioni per il momento. Rapidamente, da Como, Antonio, buongiorno. La saluto, buongiorno. Volevo dire solo che è stato un po' pesante il signor Grasso nei confronti di Bulbarelli per quanto riguarda, secondo me, la sua gestione nelle telecroniche come giornalista, perché sfido chiunque ad essere al posto di Bulbarelli e aver vissuto questo decennio terribile nei confronti del ciclismo, dove anche lui al di sopra delle parti ha saputo sempre, secondo me, dare un buon tono alla trasmissione e comunque far credere un po' di più in questo sport dove c'era scarsa credibilità. Io mi ricordo un solo aneddoto: Ricco, che ha vinto il Tour, lui contentissimo, credendo che questo fosse pulito, il giorno dopo dover commentare la gara con la delusione, con la consapevolezza che comunque stava ricopriva un ruolo che anche lui, insomma, si provava spiazzato in molte volte. Antonio, non è sarebbe lungo questo discorso, un giorno o l'altro, se crede, possiamo provare a farlo. Io sto con Aldo Grasso. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Flavio Soari in redazione, grazie a Roberto Scaltritti che ha debuttato brillantemente oggi in regia. Buon pomeriggio. A tempo di sport.